e in apertura dei lavori che a Firenze si svolgono nel corso delle giornate dell'Europa interviene il Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, che si dice deluso e anche preoccupato, si intuisce, per il ruolo insufficiente svolto dall'Unione Europea sul fronte delle crisi internazionali. Al ministro degli esteri Franco Frattini a Firenze per portare la posizione del governo italiano abbiamo chiesto un commento proprio iniziando da questa dichiarazione. Condivido, noi abbiamo bisogno di più Europa, abbiamo bisogno di una politica estera in cui l'Unione Europea parli con una voce sola. Ci dividiamo persino sull'idea del seggio europeo al Consiglio di sicurezza, quindi siamo indietro. Se il Presidente è deluso, quanto questo ricade sulle nazioni che la compongono? Certamente ricade, perché movimenti di tipo anche estremista in alcuni casi, in altri casi euroscettici, magari populisti, stanno ottenendo delle grandi vittorie in molti paesi, da ultimo la Finlandia. Questo vuol dire che dobbiamo dimostrare e spiegare ai cittadini perché più Europa è meglio, non peggio. L'Europa è stata poco capace di mostrare ai cittadini quali sono stati i risultati eccezionali che senza l'Europa non si sarebbero realizzati, e d'altronde gli stati purtroppo tendono ad accentuare i localismi piuttosto che guardare al resto del mondo. La via d'uscita è rilanciare un po' l'identità e i valori dell'Europa. Io credo, ad esempio, che se l'Europa continuerà ad essere così timida nei grandi valori come la libertà religiosa o la politica migratoria, che è questione europea e non siciliana o lampedusana, i cittadini non si renderanno conto di quali sono i vantaggi che derivano dall'essere davvero europei. Il Festival d'Europa può essere l'occasione per trovare un fulcro comune? Ma qui siamo tutti addetti ai lavori e tutti siamo a favore di più Europa, fino a prova contraria. Però l'importante è che emergano anche le voci autocritiche. Io oggi sarò molto sincero, come è stato sincero il Capo dello Stato. Firenze per un nuovo rinascimento europeo? Ci vuole un umanesimo europeo prima del rinascimento. Mettiamo prima al centro della scena i valori della persona e poi l'Europa potrà rinascere. Cioè, a proposito